rivista, insomma, storica del femminismo romano, nasce nel 75 e da sempre è un punto di riferimento per appunto per il femminismo italiano e non solo, e soprattutto è una rivista autofinanziata, diciamo che noi siamo editrici di noi stesse, quindi ci prendiamo i nostri tempi, i tempi della nostra politica, anche per pubblicare i tempi delle condizioni materiali delle nostre vite, che sono complicate come quelle di tutte, e per cui usciamo con i primi due numeri, insomma con il secondo numero praticamente a 2013 finito. E questi due numeri sono legati perché appunto sono dedicati agli spazi, il primo, e alle relazioni, il secondo, dell'agire politico tra radicalità, esperienza e conflitto, è il sottotitolo di entrambi i numeri. Nascono da un anno di riunioni di redazione allargata, e con questo termine intendo una pratica che DWF ha deciso di mettere in atto quest'anno, quindi allargare la redazione ad altre donne, compagne che condividono con noi, che hanno intrecciato o anche no percorsi politici, e nascono appunto da questo, da la relazione che si è venuta a sviluppare in quest'anno, le urgenze che sono uscite fuori tra di noi, e appunto quello che è venuto fuori è la necessità di mettere un punto su quali erano gli spazi e quali erano le relazioni di un agire politico che in questi ultimi anni si è visto nelle strade, si è visto nelle piazze, si è visto nei luoghi occupati, ma che poi stenta sempre a diventare una pratica allargata, una pratica condivisa. Sembra sempre che ci si chiuda nei propri spazi, tant'è che nel primo numero, quello dedicato appunto agli spazi dell'agire politico, parliamo di quali sono gli spazi della nostra politica, e quindi delle piazze e delle strade, ma che cosa significa andare in piazza oggi, che cosa significa andarci da femministe e come ci si va. C'è un pezzo delle compagne, delle ribellule, che si intitola Di cagni e di puttane, che appunto racconta della slut walk, questa pratica insomma di riprendersi la piazza, riprendersi la strada vestite da puttane, no? E che cosa significa andarci e come ci si sta, ma anche che cosa significa stare nei luoghi occupati. C'è un pezzo di Milva Pistoni su Luce e Siesta, appunto la casa, l'ex magazzino Atac occupato, che è diventata una casa di accoglienza per donne, e non solo, un luogo politico, che cosa significa quando un luogo politico come questo, cioè occupato, diventa poi addirittura tra virgolette un'istituzione, sia per le donne che ci vivono, sia per le donne che prendono diciamo anche la residenza lì, ma anche perché le istituzioni stesse, quando si trovano in difficoltà, visti i tagli e viste le scarse risorse che si investono appunto nei centri antiviolenza, nelle case di accoglienza, inviano, addirittura fanno riferimento a questi luoghi che in teoria no, sono illegittimi per loro, perché esatto, sono occupati, per inviarci donne in difficoltà. E sempre in questo numero abbiamo affrontato la questione del tempo, la questione delle istituzioni. In particolare c'è un'intervista a Celeste Costantino, una compagna ora deputata di Sinistra Ecologia e Libertà, che insomma a cui abbiamo chiesto che cosa significa stare dentro le istituzioni dopo aver conosciuto che cosa significa stare fuori, come si riesce a mantenere questo legame tra il dentro e il fuori, come si può stare da donne e da femministe nei luoghi del potere, che sappiamo tutte diciamo parlano dei corpi delle donne, usano i corpi delle donne, non ultimo il pacchetto sicurezza fatto passare per un decreto antifemminicidio, che in realtà utilizza il corpo delle donne non solo per far passare altre misure securitarie. L'altro numero è dedicato alle relazioni invece dell'agire politico. Siamo ripartite dalle relazioni perché pensiamo che le relazioni possano essere efficaci in un sistema, in un tempo che hanno più il sapore della sconfitta che della vittoria, che raccontano di noi e dei nostri corpi in assenza però di noi stesse. In questo numero abbiamo scelto di di restituire non soltanto le riflessioni appunto che hanno avuto luogo durante questo anno di redazione allargate con altre compagne, ma anche soprattutto di raccontare come sono state messe in scena. Quindi abbiamo cercato di abbandonare il linguaggio consolidato, rassicurante dell'analisi, per entrare in quello del dialogo vivo tra donne, tant'è che è un numero costruito esattamente così, cioè in relazione, ci sono molti dialoghi a due voci. E in questo numero c'è anche il famoso, famigerato manifesto delle femministe nove che si sono presentate a Pestum lo scorso ottobre, e presentando appunto degli estratti del manifesto, un manifesto che è stato un lavoro lungo anche su un anno, tant'è che molte delle femministe nove insomma si erano incontrate al Pestum precedente, quindi Pestum 2012, si sono incontrate, si sono scelte e hanno portato avanti questo lavoro lungo un anno in cui ci si è confrontate su alcuni temi, abbandonando appunto linguaggi consolidati, abbandonando anche qui diciamo posizioni già assodate, perché ognuna di noi viene da luoghi politici diversi, da posizionamenti diversi, c'è chi viene dai partiti, c'è chi viene dal movimento, c'è chi viene da spazi separati del femminismo, e si sono affrontate fondamentalmente le questioni del lavoro, del reddito, del corpo dell'autodeterminazione. Questo numero secondo me è molto molto molto interessante. C'è una diciamo che c'è questo mettersi in relazione tra donne senza cercare di diciamo tirare fuori delle teorie sulla relazione, perché la relazione è in divenire, no? La relazione è una messa in discussione continua, e abbiamo cercato di dare anche nella composizione del numero questo tipo di segnale qua. C'è molto anche sull'autocoscienza, c'è un'intervista al collettivo Benazir, un'intervista di Viola Lomoro, in cui appunto Eva, Livia, Daniela e Ludmilla raccontano di questa pratica dell'autocoscienza che hanno rimesso in pratica, un'intervista accompagnata poi da un saggio più strutturato di Valeria Mercandino appunto sull'autocoscienza, no? Che si intitola Le radici del presente, relazioni tra donne nella pratica di autocoscienza. Insomma, questi due numeri sono due numeri ricchissimi, molto, devo dire. Sì, molto ricchi, molto no, nel ricchi. Senso che oltre a venire a conoscenza di elaborazioni fatte da donne, no? Quindi comunque di incontri che hanno appunto messo insieme relazioni e prodotto, ci sono anche un'infinità innumerevoli per le donne che hanno partecipato anche di riflessione, no? E quindi scaturisco. Infiniti spunti poi per altre relazioni, altre riflessioni, insomma. Esatto, no? Infatti noi cominceremo insomma a diciamo una tournée ad andare in giro insomma in vari luoghi, esatto, luoghi ma non solo del femminismo, luoghi misti, per presentare questi due numeri insomma una delle nostre pratiche più consolidate non è quella di andare in giro a presentare i numeri, quanto piuttosto andare nei luoghi e diciamo per cercare di portare degli spunti che possano appunto, come dicevi giustamente tu, essere la base di ulteriori riflessioni. Va bene, grandi. Allora, insomma, come si può comprare DWF? Allora, DWF si può comprare in alcune librerie in giro per l'Italia, basta andare sul sito www.dwf.it oppure scrivere alla redazione @dwf.it con appunto la richiesta del numero che si desidera acquistare, oppure abbonarsi, visto che siamo autofinanziate. Fammi fare questo appello. Per Natale regalate, esatto, un abbonamento a DWF, costa solo 35 euro l'anno, 4 numeri, ci date una mano e aiutiamo diciamo il pensiero e la pratica femminista a circolare. Sì, a metterla nero su bianco, poi tanto lavoro. Esatto, no? Esatto. Va bene, allora in bocca al lupo e grazie mille. Crepi, grazie a voi. Ciao. Ciao.